Buonasera a tutti! Allora, come va? Io sono felicissimo di essere con voi questa sera. Poi sapete, questa posizione è una posizione di onore, non perché si predica da qui, ma perché da qua c'è la possibilità di vedervi tutti quanti insieme. Questa è la cosa, l'esclusiva di questa posizione. È come abbracciarvi tutti quanti insieme in un secondo e arrivo addirittura anche a Mottola col mio abbraccio. Mottolesi, siete sempre nel mio cuore, sapete quanto vi voglio bene. E spero che quello che ho da condividere questa sera sia di benedizione per tutti quanti. Quindi da Modugno fino a Mottola, chiunque ci ascolterà, per come è stato di benedizione per me. Nell'ultimo mesetto, diciamo così, mi sono messo un po' a riconsiderare il termine di generosità e di dono, proprio perché domenica scorsa, insomma, abbiamo appena sentito, abbiamo vissuto questa domenica che si veste di tutta la sua straordinarietà, dono perché amo, e quindi volevo anche vivere quell'incontro, visto che siamo alla 11ª edizione di Dono perché amo. Non volevo viverla quasi come se fosse oramai qualcosa di normale, per quanto sia bellissima già come cosa. E allora mi sono messo un po' a dire: Signore, ma nel tuo cuore la generosità che posto prende? Che cos'è, Signore, per te la generosità? E da lì si è aperto un grande mondo che voglio un po' condividere con voi. Parto subito dal dire che generosità non è soltanto materiale finanziaria, quella è una delle forme della generosità. E quindi facciamo un percorso questa sera insieme all'interno della parola di Dio, ma procediamo per ordine. Partiamo da Gesù. Dobbiamo sempre partire da Gesù e in qualche modo dobbiamo ritornare a Gesù. Questo ci dà la certezza che stiamo parlando di Dio, che stiamo proferendo la sua parola e che quello che stiamo dicendo è verità. Siete bravi con l'immaginazione? Qui in prima fila mi hanno detto sì, in fondo non so. Ce la potete fare, non è una cosa difficile che vi sto chiedendo. Dobbiamo spostarci semplicemente su un monte, a nord del Mar di Galilea, un bel po' di tempo fa, lì c'è Gesù, ci sono i dodici e c'è una folla. Decidi tu ora dove metterti, se fra i discepoli o tra la folla. Questo, insomma, sono cose tue, personali, il discorso non cambia, vale per entrambi. Perché su quel monte Gesù rivela qualcosa di straordinario. Sapete, Gesù conosceva benissimo qual era la cultura del mondo allora conosciuto, della cultura, del momento storico nel quale Gesù ha vissuto su questa terra. E così come conosce la cultura di oggi, non si fa cogliere, come dire, impreparato. E dice in Matteo 5:38, voi avete udito che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. E le persone lì, oh, questo, visto, lei sa le cose, non è bugia che è uno sprovveduto figlio di falegname, sa benissimo qual è la legge in auge, in atto, in questo momento. In Esodo 21, Dio stesso aveva dato queste indicazioni riguardo proprio le sanzioni che dovevano essere pagate qualora c'era un'offesa rivolta ad una persona, oggetti, animali e cose. Quindi Gesù stava parlando della parola di Dio, allora conosciuta, quindi siamo nel Pentateuco, e conosceva benissimo anche qual era il diritto, la legge in atto in quel momento. Oggi viviamo in un periodo storico completamente diverso. Dire occhio per occhio, dente per dente non suona assolutamente bene, però in realtà vi dico che il diritto ancora oggi sta cercando di commisurare con esattezza qual è la corrispondenza che esiste, ad esempio, a pena, errore, pena, oppure una buona azione, premio. Il diritto, la legge, ha sempre cercato di far questo, di capire come ad un'azione umana deve corrispondere un premio o una sanzione. Anche oggi, se sbaglio, pago la multa, se metto la macchina in divieto di sosta o se commetto un omicidio, vado a finire in carcere. Questo è il diritto. 2000 anni indietro, oggi, il diritto, la legge, è questa, la corrispondenza è la stessa. Ma Gesù, dopo aver detto quella frase, sciocca tutti quanti con questi versi qua che leggiamo insieme. Matteo 5:39-42 c'è scritto: ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuol farti causa e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Gesù rompe con ogni schema di giustizia riconosciuta fino a quel momento. La logica umana incomincia a girare in una maniera forsennata, perché si sta scontrando contro un paradosso. La legge dice una cosa, la cultura dice una cosa, e questo Gesù va completamente all'opposto con tutta un'altra logica, la logica divina. Questa è follia per il mondo. È follia quando Gesù ha detto quelle cose, è follia ancora oggi. Io sfido chiunque a prendere questi versi e a dire, che ci vuole? Lo faccio tutti i giorni. Perché non è la logica umana, assolutamente. Lì, nei luoghi celesti, in quel momento, mentre Gesù proferiva quelle parole, c'è stato un terremoto immane, secondo me. E quello che di più grande che doveva ancora succedere era a poco di lì, insomma. Gesù stava preparando con quel discorso, questo bellissimo sermone sul monte, la via per la croce. Su quella croce Gesù mette completamente in manifestazione qual è la logica di Dio, la logica della generosità. Dio ha dato completamente se stesso mandando suo figlio Gesù. Non c'è stato atto di generosità più grande nella storia, né mai ce ne sarà un altro simile. Grazie alla generosità, io e te questa sera siamo qui, alla generosità di Dio. Lui lavora per sovrabbondanza, non può limitarsi alle cose umane, deve andare oltre necessariamente per vincere l'umano. Fino a quel momento i concetti di giustizia e di amore condivisi, così come i concetti di giustizia e d'amore che possiamo condividere io e te, erano qui. Ma Gesù doveva andare oltre. Ecco la sovrabbondanza di Dio. Dio ha pensato e ha ben pensato nella sua generosità di dare tutto quello che c'era da poter dare, affinché nessun'altra cosa potesse essere superiore. Non c'è stata e non ci sarà mai più un prototipo di giustizia che può sconfiggere, che può abbattere il livello di giustizia che è stato rivelato nel sacrificio di Gesù. E per quella giustizia oggi io e te siamo giustificati, e siamo giustificati per grazia. Non lo possiamo meritare assolutamente. Sempre per la sovrabbondanza di Dio, io e te siamo amati di un amore che non possiamo ripagare. C'è una gratuità, c'è una unilateralità da parte di Dio verso di noi che è assoluta. Lo diceva benissimo, lo dice, possiamo usare il presente, l'apostolo Paolo, perché la parola di Dio, insomma, è vivente ed è ancora presente oggi. Quando in Romani 5,8 diceva, Dio invece mostra il suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, lo ripeto, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco la sovrabbondanza di Dio. Ancor prima che noi potessimo far qualcosa, lui ha detto, io già vi do tutto. È già tutto quanto qui. In Gesù tutto è stato compiuto. In Gesù tutto quanto è pieno, è totale, non c'è parzialità. E noi ci troviamo a vivere il beneficio di questa totalità, di questa completezza. Qualcuno mai, camminando per strada, ti ha detto mai, sei una luce stupenda, sei un sale di quelli saporitissimi. Ma sai che si vede che non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. È evidente che tu stai proclamando le meraviglie di colui che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Sai chi le può dire sicuramente queste parole riguardo te e riguardo me? Dio. Dio ha detto questo di te e di me. Dio ci vede in questa maniera, grazie al suo sovrabbondante amore. E io sono sincero, non è che mi sento che rispetto completamente questa descrizione di figlio di Dio. Però Dio mi vede così, e io devo crederci in questo. Devo credere nell'identità che Gesù ha conquistato per me su quella croce. Perché se non ci credo, do spazio a qualcos'altro. A mezza verità o a complete bugie. Qualcosa qualcuno me le deve pur dire. E se non lascio lo spazio a Dio di dire chi io sono per Lui, Sarà il diavolo certamente a dirmi chi sono. Ma se accetto appieno quella che è stata la sovrabbondanza, questa parola ci deve entrare in testa, sovrabbondanza, eccedenza, generosità, surplus, sono tutti sinonimi di qualcosa che riguardano Dio, di quello che Dio ha fatto, di quello che continua a fare in questo mondo, nella tua vita, così come nella mia vita. Noi dobbiamo essere abbondanti quando ci pensiamo in relazione con Dio. Noi dobbiamo essere abbondanti quando ci pensiamo in relazione l'uno con l'altro. Perché se non vi porto ad essere abbondante, vivrò parzialità, vivrò una fede parziale, vivrò una relazione parziale con Dio. E credetemi, è un po' da sciocchi, sapendo che io posso fare 100, perché Cristo ha fatto 100 per me, e io mi accontento del 50, 60, insomma, vedete un po' voi qual è il numero che più vi piace. Se ho 100 a disposizione. Ricapitolando, Dio doveva coniugare il suo profondo senso di giustizia. Attenzione, con Gesù non è stata annullata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio esiste ed è reale. Il suo profondo senso di giustizia e la sua grande misericordia dovevano essere coniugate. La legge, il diritto, il premio o punizione non potevano risolvere il problema. Ha mandato suo figlio Gesù su questa terra. E in quell'atto di generosità io e te siamo diventati addirittura partecipi della natura divina. Lo dice la Bibbia questo. Ti riconosci partecipe della natura divina? Che significa? Che io per fede credo di essere una nuova creatura. Il vecchio uomo è morto completamente, io sono una nuova creatura, sono un essere spirituale che indossa una nuova veste, che ha una nuova mente, che agisce diversamente. E nel rinnovamento della mente che io ho nel momento in cui ho creduto in Gesù come Salvatore, Signore della mia vita, colui che mi concede vita abbondante ed eterna, io posso anche dire di avere la stessa logica di eccedenza che ha Dio. La stessa sovrabbondanza di Dio incomincia a fluire nei miei pensieri e io posso incominciare a pensare in maniera sovrabbondante e io posso incominciare ad agire in maniera sovrabbondante. Sapete, noi abbiamo una maniera per fare tutto questo in modo molto molto molto pratico ed è condividendo la nostra testimonianza. Ora qui non parlo della testimonianza del giorno del battesimo o della testimonianza che facciamo in piazza quando c'è, che so, un evento evangelistico. È una testimonianza quella. Ma io parlo di una testimonianza di vita, di una vita autentica, di una vita audace, verace in Gesù e al tempo stesso umile tanto da poter far capire agli altri che non è merito mio, ma è merito di Cristo che opera in me e che mi permette di poter vivere una vita abbondante come Lui mi ha promesso. Ma ve lo voglio spiegare meglio questo, fra un pochino. Voglio invitare questa parte della prima fila qui che è davanti, quindi da Gaia a Monica, ad alzarsi un attimo in piedi. C'è qualche altro B1? No, no, ci sono soltanto loro. In piedi, voglio un applauso enorme per queste ragazze. Giratevi da quella parte, mettetevi a favore delle persone. Questa è una parte di un gruppo, sono i preado della nostra chiesa. Grazie, potete accomodarvi. Monica, tu puoi salire invece. È una parte di un gruppo dei preado, sono i B1, essere uno, in riferimento proprio al verso quando Gesù dice pregando al Padre che possono essere uno in noi come io e te, Gesù e Dio siamo uno, e quindi loro vogliono essere uno con Dio, uno nell'unità fra di loro, e sono ragazzini e ragazzini che stanno facendo la differenza, hanno deciso alla loro età di essere testimonianza vivente in qualunque posto dove loro si trovano. È ammirabile. Io volevo essere come loro alla loro età. Non ero come loro, purtroppo. Però abbiamo potuto, recuperare il tempo. E voglio che Monica possa condividere con voi una testimonianza. Ha condiviso qualcosa qualche martedì fa. Ogni martedì noi abbiamo l'incontro. E quando ho sentito questa sua esperienza, e ho visto soprattutto la gioia che le brillava negli occhi, ho detto no, questa cosa non può restare in questa stanza. Ascoltiamo cosa Monica ha vissuto semplicemente nella sua vita di tutti i giorni. Ok, sì, sono Monica. Praticamente, come ha detto Luigi, e come c'è scritto nella Bibbia, noi dobbiamo essere diversi, dimostrarci diversi agli altri. E quindi far vedere che noi non ci comportiamo come le persone, ma dobbiamo comportarci come Dio fa. Praticamente, qualche settimana fa, avevo iniziato in classe una traduzione di spagnolo. Io, come sempre, li completo a casa le traduzioni e quindi quando torno a scuola porto la traduzione completa e dico: ecco professore, la mia traduzione. No, guarda, che bisognava non bisognava completarla a casa, bisognava completarla in classe. Ah, ok. Ovviamente, come tutta la mia classe, la mia compagna di banco non aveva fatto questa traduzione. E io, ricordando che noi dobbiamo mostrarci diversi e fare cose che le persone comuni, diciamo così, non fanno, ho deciso di far vedere alla mia compagna di banco la mia traduzione. Le ho chiesto: ehi Jo, vuoi vedere la mia traduzione? Così ti sbrighi più velocemente. E lei: Monica? Sei la Monica che ho conosciuto in questi 3 anni? Sei sempre tu? E quando ho detto questa cosa è stato stupendo, perché sentirsi dire una cosa del genere da una persona che ti conosce da 3 anni praticamente è una cosa stupenda, perché vuol dire che ha visto in te un cambiamento, e quindi è una sensazione che secondo me ognuno di noi dovrebbe provare. Grazie Monica! Io ho tanta tanta stima di questi ragazzi. Sono coraggiosi, martedì abbiamo un incontro speciale dove inviteranno ancora una volta i loro amici di scuola, insomma i loro amici, proprio per poter stare insieme, divertirci, ma poi condividere sempre quello che è il messaggio di salvezza e di speranza che Dio ha per ogni generazione, quindi dai più piccoli ai più grandi, nessuno escluso, è dentro quel messaggio di speranza e di amore che Dio ha a favore dell'umanità. E continuerà ad averlo, quindi grazie ragazze che siete lì in prima fila per l'esempio e l'incoraggiamento che siete per tutti quanti noi come chiesa. Credo che tanti qui avrebbero voluto essere come voi alla vostra età. Voi state facendo la storia di una nuova generazione di questa chiesa che vive la fede appieno, con il coraggio di non tirarsi indietro, ma di dire: io appartengo a Cristo, io sono figlia o figlio di Dio. Grazie di cuore, davvero tutto il mio grazie. Ma continuiamo. Come avete sentito, Monica ha potuto mostrare questa cosa solo e soltanto avendo una relazione con la sua amica. Io non posso mostrare la mia bellissima testimonianza di vita, di figlio di Dio, se sto chiuso in casa, nella mia cameretta. Certo, gioirei di mio. Grazie Signore che hai fatto quest'opera stupenda, guarda come sono stupendo, grazie Signore che tu mi rendi santo, guarda come sono santo Signore. Insomma, Dio direbbe: beh Luigi, vabbè, ho capito, basta, ma me l'hai detto, non è che domani me lo dici di nuovo. Dio mi vede come luce, come figlio suo, santificato e non perfetto per questo, attenzione, santo significa che non vado cambiando con l'aureola, ma che sono stato appartato, che ho scelto di essere di Dio e di appartenergli. E questo, se io lo scelgo, produce inevitabilmente delle differenze in me, nel mio modo di parlare, nel mio modo di guardare e comunicare con le persone, quindi di agire anche davanti alle situazioni. La luce nei nostri occhi, credo che questa è una cosa che a monti sarà successo, hai una luce strana negli occhi, perché noi davvero guardiamo le cose con occhi diversi e sappiamo che dietro probabilmente ad una tristezza, ad una situazione cattiva, c'è qualcos'altro che si sta muovendo, che sta nuocendo alla vita di quella persona, così come sappiamo che c'è una speranza più grande alla quale si potrebbe fare appello. A quella consapevolezza interiore noi possiamo far corrispondere un nostro modo di essere in questo mondo, testimoni della sovrabbondanza di Dio. Giustizia e amore sono, per la Bibbia, per Dio, concetti relazionali. Non possono essere vissuti nel chiuso. Devono essere manifestati. E il luogo, il posto dove meglio possono essere manifestati è fra la gente. E io credo che qui dentro, più o meno tutti, tranne qualcuno che forse ha fatto voto di clausura, se hai fatto voto di clausura l'hai rotto perché sei qui, quindi non lo so. Forse chi è a casa sta facendo voto di clausura, non ho idea. Però tutti quanti noi abbiamo la possibilità di poter stare con gli altri. Casa, strada, negozio, lavoro, scuola, palestra, pizzeria, vacanze e quant'altro. Abbiamo occasione e modo di poter stare con gli altri. E che ne facciamo di questa occasione unica, quotidiana, costante di poter condividere Cristo attraverso la nostra vita? Certo, io non posso stare dalla mattina alla sera a predicare, anche perché la gente un po' direbbe: oh Luigi, ma sempre tu vuoi parlare. Noi dobbiamo diventare sovrabbondanti, ad esempio, nell'ascolto. Questa è una cosa importantissima. Diventiamo per un tempo sovrabbondanti nell'ascoltare gli altri. Ad un certo punto possiamo diventare sovrabbondanti nell'aiutare gli altri. Ad un altro punto possiamo diventare sovrabbondanti nell'incominciare ad amare il prossimo con gesti di amore pratici, concreti. Sapete, i nostri concetti, quelli umani, condivisi normalmente, come vi dicevo, arrivano ad un certo livello, ma se noi andiamo con quell'eccesso di amore che è proprio di Gesù, che ci permette di poter amare il nemico, o andiamo con quell'eccesso di giustizia che è proprio di Gesù, che ci permette di poter fare all'altro quello che vorremmo fosse fatto a noi. Se noi andassimo dagli altri con lo stesso eccesso di generosità che Gesù ha avuto nei nostri confronti, noi saremmo generosi oltremodo nei confronti degli altri del mondo. Questo romperebbe gli schemi di questo mondo, perché i concetti, quelli normali, crollano. Noi andiamo con una misura traboccante, che è la misura di Dio per noi. Lui è traboccante. Sai che quando Dio ci ha promesso lo Spirito Santo, non ha detto vi do lo Spirito Santo a gocce, ma in maniera traboccante. È una pienezza, quindi diciamo che sono pieno da qui, ma è traboccante perché va fuori. Quelle sono le misure di Dio e io non posso esimermi da ridurre o da continuare a pensare di poter ridurre le misure di Dio. Dio va oltre, deve andare oltre e ha bisogno di noi per poterlo dimostrare che tutto questo è vero, perché io lo vivo, perché tu lo vivi e deve essere evidente agli occhi degli altri. C'è questo riferimento biblico che voglio leggere con voi. Siamo in Ecclesiaste. Un libro fantastico, straordinario, leggetelo, ogni tanto fa bene andare a rileggerlo, anche se l'hai letto tantissime volte, perché è pieno pieno di saggezza, saggezza divina. Ecclesiaste 11, 1, dall'1 al 6 dice: «Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra». Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dà riposo alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello o se ambedue saranno ugualmente buoni. Prendi del pane e buttalo sull'acqua. Proviamoci qualche volta. Andiamo al mare, prendiamo dei pezzi di pane e buttiamolo. Qual è la probabilità secondo voi di ritrovare questo pane dopo molto tempo? Io ho pensato, se vado a 5-10 minuti forse lo trovo, ma siccome dice dopo molto tempo, credo che la percentuale di probabilità sia zero. Però la Bibbia qua dice che la si ritrova. Allora, la Bibbia dice la verità. E mi sono messo un attimo a riflettere. Signore, tu mi stai dicendo che non devo neanche buttare un tozzo di pane vecchio, ma addirittura mi dici di essere generoso nel buttare questo pane sull'acqua, addirittura pensando come se dovessero mangiarne 7 o 8 persone. In quel momento in cui veniva scritta questa cosa, periodo storico-culturale, il pane era come per noi, che so, la carne, un cibo, insomma, di quelli importanti, di quelli che riempiva lo stomaco, di quelli che permetteva di sussistere, insomma, anche nei periodi di carestia. E era un cibo importante, non era come buttare qualcosa che ha poco valore, forse come oggi, il pane sembra quasi che non sia più nulla. Dio dice di essere abbondanti e generosi nel lasciare questo pane. E ok, lo immagino, Signore, che vado con un bel cesto di pane e lo butto sull'acqua. Dopo molti giorni ritorno in quel punto e non credo di trovare il pane, però ho pensato, mentre aspetto, vedo che c'è un pesce lì. Dico, dai, nel frattempo, chissà che il pane ritorna, butto l'amo e prendo quel pesce. Nel momento in cui prendo quel pesce, realizzo che il pane mi è tornato, perché quel pane ha cibato quel pesce. Quando quel ragazzino dai 5 pani e 2 pesci sempre lì intorno al Mar di Galilea, dà tutto quello che aveva, non poteva essere più abbondante, e lo dà a Gesù, non sapendo neanche se gli sarebbe tornato indietro qualcosa. Ha fatto l'atto di generosità più grande che poteva fare. La sua abbondanza ha permesso a Gesù di essere sovrabbondante. Ha potuto sfamare migliaia di persone ed è avanzato ancora tanto altro pane e tanti altri pesci. Quel ragazzino è tornato a casa, secondo me, con le ceste piene. Noi a volte ci facciamo limitare da questa logica, che è una logica della corrispondenza. Se io do un panino, almeno devo ritrovare un panino, almeno, se non due, in maniera miracolosa. Non ci pensiamo che a volte a un panino corrisponda a un pesce, probabilmente. Noi non possiamo esimerci dal distribuire, dal spargere in maniera abbondante Gesù pane di vita. Perché più pane diamo, e più sarà la possibilità che pesci vengano a Cristo. Mi seguite in questa immagine? Più io condivido la mia testimonianza, e siccome Ecclesiaste mi dice, guarda, tu non lo sai quale sarà quel seme che andrà a frutto e quel seme invece che magari verrà un uccellino e se lo mangerà. È proprio per questo, dato che non lo sai, caro Luigi, che dalla mattina alla sera non devi fermarti di buttare la semente. La semenza, di buttare pane. Gesù è il pane di vita. Lui si è presentato in questa maniera. E io questo posso fare, non posso fare nient'altro se non condividere Cristo attraverso la mia vita. E un giorno, magari, un pesciolino verrà su. E quel pesciolino, forse lo saprò, forse non lo saprò, ma sarà frutto di quel pane che io ho lasciato andare. A volte siamo un po' troppo resti. Gesù è per me, io ho una relazione con Gesù, wow, bellissima. Cioè nella mia cameretta certi tempi personali con Gesù, wow, straordinari. Io sono felice che possiamo avere dei tempi straordinari intimi con Dio. Dio è anche il Dio della cameretta, assolutamente. Ma non posso chiudermi lì. Quello deve essere il punto di partenza per potermi equipaggiare in Cristo e poi andare in questo mondo, che non è facile. Dovrò dare, e dare non è dare quello che mi avanza, come abbiamo ben capito. La generosità è andare oltre. Dio è andato oltre. E io e te, vogliamo andare oltre? Questa è la domanda di questa sera. È una domanda essenziale a poter raggiungere, ad esempio, quell'uno in più di quest'anno. Quell'uno in più può essere frutto di una semina, di una evangelizzazione strutturata, perfetta. Ci scambiamo i ruoli, il luogo, è il momento, è il palco, e le luci, funziona. Ma quell'uno in più potrebbe anche essere semplicemente il frutto di un semino caduto per strada, neanche me ne sono accorto. E allora io che faccio? Mi limito? Non posso più limitarmi. La parola mi sta invitando a darmi completamente. Io devo manifestare la pienezza del frutto dello Spirito in manifestazione nella mia vita. Io devo dimostrare in maniera sovrabbondante la mia santità e la mia radicalità. Io devo poter testimoniare della saggezza che Dio condivide nella mia vita, aiutandomi ad avere una vita che va in una direzione a volte anche incomprensibile, ma che so essere la direzione che Dio ha scelto per me, che è il meglio per me. Io devo essere pronto a difendere, a spada tratta, diciamo così, la mia identità di figlio di Dio. Non posso permettere che qualcuno o qualcosa venga ad offuscare o a sminuire o a rubare il mio essere stato pagato a caro prezzo da Dio. Non c'è prezzo più alto che poteva essere pagato. È stato pagato tutto. E a quel tutto, torniamo alla nostra logica umana, se qualcuno ti dà tutto, un minimo di riconoscenza, credo che si sviluppi dentro di noi. Ma Dio non sta cercando riconoscenza. Dio sta cercando semplicemente persone che possano vivere la vita che Lui ha pensato, immaginato, strutturato, organizzato, pianificato per te e per me da quel giorno in cui abbiamo scelto per Gesù all'eternità. È una vita sovrabbondante, è una vita che non ha fine. E io a volte mi fermo a fare un po' i conteggi. La corrispondenza, l'equivalenza, qual è? Lasciamo questa logica umana. Sapete, il mondo vive una logica della parzialità, ma io non sono in parte vincitore sul peccato, o in parte benedetto, o in parte figlio di Dio. Questa è la logica di questo mondo, la parzialità. Noi dobbiamo, da figli di Dio, smascherarla completamente e al tempo stesso cacciarla nel nome di Gesù dalla nostra vita. Non è una logica che ci appartiene più. Abbiamo detto che siamo nuove creature, che la nostra mente è rinnovata in Cristo e che possiamo vivere quella logica oltre ogni misura. Questa sera abbiamo la cena del Signore. C'è il pane e c'è il vino. Sono simboli che ci riportano a qualcosa che abbiamo detto questa sera, al sacrificio, a quell'atto di generosità che Dio ha fatto dando suo figlio. Gesù non si è tirato indietro, ha detto ok Padre, per ubbidienza, l'abbiamo anche cantato, per ubbidienza, e per ubbidienza lui ha sconfitto la morte. Per ubbidienza Gesù ha rotto quella corrispondenza che c'era tra peccato e morte. Questa corrispondenza esiste ancora. E esiste ancora in questo mondo, ma per chi crede in Gesù, quella corrispondenza non esiste più, non ha più valenza. Noi questa sera possiamo riconoscere quanto grande è stato il sacrificio di Gesù per noi, ma al tempo stesso dobbiamo anche ricordarci che noi siamo morti con Cristo, che in quel sacrificio Gesù ha portato con sé il vecchio Luigi e che noi oggi viviamo in Cristo. Io lo devo ricordare a me stesso, che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questa sera abbiamo occasione di poter riflettere un po' su questo, riflettere sul fatto, sto effettivamente dando pieno spazio a Gesù di vivere in me, o sto facendo delle porzioni. È importante, se vuoi vedere la sovrabbondanza di Dio, se vogliamo sperimentare come Chiesa una crescita qualitativa a livello spirituale, quantitativa a livello di numero, dobbiamo dare in maniera abbondante e dobbiamo dare in maniera abbondante noi stessi, la nostra stessa vita. Abbiamo un modello per eccellenza che è stato Gesù. Lui ha detto che non c'è amore più grande di dare la propria vita per i propri amici. Questo è l'esempio che Gesù ci ha lasciato. Io posso dare la mia vita a favore del prossimo. E dando la mia vita a favore del prossimo, che posso testimoniare di quanto grande è l'amore di Dio per quella persona. Che questo momento sia un momento di riflessione che possiamo fare tutti quanti insieme come Chiesa, dove consideriamo quanto sovrabbondante è stata la grazia di Dio nella nostra vita. E io prego che questa sera possa essere una sera in cui quella grazia sovrabbondante, ancora una volta, si apre davanti ai nostri occhi in tutta la sua grandezza, in tutta la sua bellezza. Che ne possiamo rimanere ancora una volta non solo affascinati, ma colpiti, tanto da essere atterrati davanti a una grandezza che va fuori ogni nostra misura. Io prego che davanti a questo tempo di riflessione e di preghiera, tutti quanti noi possiamo, con tanta sincerità, nei confronti di noi stessi questa volta, perché a Dio, insomma, non possiamo mentire, ma con tanta sincerità nei nostri confronti, ci possiamo dire che ne sto facendo di tutta questa sovrabbondanza di amore e di giustizia che Dio ha per me. Perché questo è il punto. Da questo punto possiamo sperare e credere che c'è quell'uno in più, che c'è di più di Dio nella mia vita, che c'è di più di quello che io posso sperimentare in termini di santificazione, consacrazione, e quant'altro. Posso invitarvi ad alzarvi in piedi? Mentre viviamo questo tempo della cena del Signore, dopo vivere da solo, poi vivere magari chiedendo preghiera a qualcun altro, anche in questo possiamo fare alleanza. Abbiamo sentito che tutto quello che abbiamo detto ha una base relazionale. Ci ricordiamo anche che come Chiesa chiediamo di poter, visto proprio l'importanza di quello che andiamo a fare, a chi non è battezzato o comunque non ha ancora fatto una scelta ferma e decisa per Cristo, di non prendere parte alla cena del Signore. Ma al tempo stesso puoi riflettere. Al tempo stesso questo messaggio vale per te così come vale per qualsiasi altra persona. Non sentirti fuori, ok, non è più per me, è per tutti. La grazia di Dio, l'amore di tutti, di Dio è per tutti. Preghiamo insieme e poi possiamo vivere questo tempo di preghiera e riflessione e partecipare alla cena. Signore, io ti ringrazio ancora di cuore per come ti sei rivelato in maniera così profonda alle nostre vite. Grazie per come non ti sei fermato davanti alle nostre colpe, davanti alla nostra sufficienza, davanti alla nostra testardaggine, ma sei andato oltre e ti sei dato ancora prima che noi ti potessimo riconoscere come Signore della nostra vita. Ed io prego, Signore, che in questa sera, ancora una volta, le nostre vite possano essere arrese a te, ancora una volta i nostri cuori possano essere aperti a te e che tu possa riempirci di te, Spirito Santo, che tu possa riempirci delle verità del Padre, che tu possa costituire in noi una identità di figli di Dio che sia stabile, solida, fondata su Gesù. Tu, Signore Gesù, hai vinto per noi su quella croce e noi questa sera siamo qui a riconoscere quella vittoria piena, totale, e lo dichiariamo nei luoghi celesti, lo dichiariamo qui su questa terra, che ti apparteniamo, che vogliamo vivere una vita per te, in tutto e per tutto, senza tirarci indietro, ma guardando avanti e guardando alle mete importanti che tu hai posto davanti a noi. Grazie perché non siamo soli in questo. Grazie perché tu hai appianato per noi la via e noi vogliamo camminare su quella via. E io prego per il tempo che abbiamo da vivere insieme come Chiesa, che possa essere un tempo dove tu ti riveli in una maniera straordinaria, in una maniera nuova, in una maniera autentica, che nulla possa restare più come era prima, ma che una rivelazione nuova e fresca di te possa esserci data affinché noi possiamo vivere tutto il nuovo che è pronto per noi come Chiesa e come singoli. Preghiamo tutto questo nel nome tuo, Signore Gesù, sapendo di trovare in te quell'amen, quel sì fermo, stabile, che è incrollabile. Grazie, Signore.